Il gastronauta di Davide Paolini. Gastronauti vicini e lontani, buona giornata, buona giornata. Oggi parleremo di un argomento un po' particolare. Come ho detto prima, probabilmente ci sarà qualche tradizionalista che sobbalzerà sulla sedia nel sentire parlare di panettone d'estate in pieno agosto, magari sotto l'ombrellone con un po' di gelato, magari con una crema, o magari servito anche molto molto fresco. Ebbene, è un fenomeno che 6 anni fa, quando io ho cominciato a parlarne su questa radio, probabilmente sembrava così una roba abbastanza inverosimile. In realtà non è così, perché oggi è qualcosa di molto ma molto concreto, e lo sentiremo da molti protagonisti, produttori di farine, pasticceri e tanti altri che lavorano in questo settore. Allora, 800 24 00 24, per voi ascoltatori, contrari o favorevoli, 349-238-6666 per i vostri sms. Ma cominciamo dalla Sicilia, sì, perché è una premessa. Il panettone, sicuramente la capitale del panettone è Milano, indiscusso, si dice sia nato a Milano, anche se qualcuno ha portato documenti dicendo che è nato in Russia, ma comunque questo è un aspetto, diciamo, secondario. Milano rimane la capitale, però ormai la produzione si è espansa un po' in tutta Italia, e soprattutto al sud sono nati tantissimi pasticceri che fanno degli ottimi panettoni. Allora io voglio iniziare dalla Sicilia, da Castelbuono in provincia di Palermo. Buongiorno Nicola Fiasconaro. Buongiorno dottor Davide. Dunque, Fiasconaro è stato un personaggio che ogni anno crea un qualcosa di diverso. Ha sostituito a suo tempo lo zucchero con la manna, ma ora so che ha delle novità estive. Fiasconaro, ce la vuoi raccontare? Beh, il fatto che siamo riusciti in Sicilia a destagionalizzare il panettone è davvero una cosa molto bella. Siamo ovviamente pasticceri, dove c'è il trionfo delle cassate, dei cannoli, d'estate le granite con la brioche, insomma, no? Ma invece, facendo il panettone tutto l'anno, anche in Sicilia, ci giochiamo col panettone caldo. Cioè, quest'anno ho presentato questo progetto, che è molto accattivante, dei cubetti di panettone disidratato, riscaldato col contrasto del ghiaccio delle granite siciliane, quindi gli agrumi o ai gesso, le fragoline di bosco, eccetera, ed è un contrasto meraviglioso. Quindi è nato il panettone, diciamo, al posto della brioche con la granita. Lei quest'anno ha sostituito questo, insomma. Siamo sempre in tema di paste acidi. Quando sono con lievito madre sto benissimo, ovviamente. La brioche siciliana con le granite è uno dei cavalli, no? È uno dei punti di forza della millenaria cultura, tradizione siciliana del dolce. Perché non provarlo a farlo col panettone? Ed è stato un successo incredibile. Chi viene in Sicilia, chi passa da Cefalù, dalle Madonie, da Castelbuono, è obbligato ad assaggiare, oltre quella che è la tradizione siciliana, appunto durante l'estate facciamo una serie di sorbetti, di granite, di gelati in varie tipologie, ma ovviamente soprattutto con quello che è il trionfo che l'agricoltura offre della nostra terra. Quest'anno questa granita al panettone sta avendo davvero oltre che la curiosità e l'iniziazione, poi il successo del palato, che è molto elegante anche come gusto. Ha fatto un bellissimo manifesto alla sua Sicilia. Grazie a Nicola Fiasconaro. Ma devo dire che ho già parecchie telefonate che arrivano. Sentiamo Claudio da Firenze, scopriremo cose interessanti. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Prego. Buongiorno a tutti. Niente, vorrei dire che per me non è nessuna novità, perché io sono un italo-argentino, sono nato in Argentina e noi naturalmente il Natale lo festeggiamo d'estate. Bene, quindi, ma il Sud America è ricco ormai di produttori di panettoni, perché anche in Brasile sembra che ci sia il leader della produzione mondiale di panettoni, quindi questo panettone sta invadendo il mondo, dobbiamo difenderci. Grazie a Claudio da Firenze. Bene, torniamo diciamo ai fatti produttivi. Io voglio chiedere a Sabrina Dalla Giovanna, che è del Molino Dalla Giovanna, cosa ha portato, diciamo, questo panettone d'estate? Un incremento di lavoro, di richiesta di farina? Buongiorno dottor Paolini e ai radioascoltatori. Sì, assolutamente, diciamo che dal 2011 c'è stato un incremento veramente importante durante l'estate dell'utilizzo della farina da panettone, perché rispetto al 2011, sul 2012 abbiamo avuto un incremento del 45% e al 2013 siamo arrivate a un ulteriore 10%. Quindi assolutamente, forse grazie anche a questa destagionalizzazione e a iniziative come la sua del panettone d'estate si è avuto un bel incremento, insomma si sta spingendo tantissimo questo prodotto che, come potete vedere, può essere consumato con granite, gelati, ed è ottimo assolutamente. Senta, ma anche dall'estero avete richieste di farina per panettone? Sì, assolutamente. Abbiamo un grosso cliente in Svizzera, per esempio, che produce molto più panettone d'estate che d'inverno. In Svizzera? Beh, sappiamo che sì. Il Canton Ticino ci sono 90 pasticceri i quali hanno utilizzato il panettone d'estate, mentre noi in Italia dormivamo, sì. Loro sicuramente vendevano. Grazie Sabrina Dalla Giovanna, grazie. Sentiamo Nazareno dalla provincia di Latina, buongiorno Nazareno. Buongiorno a voi. Ascolti, io ho una piccola esperienza per il panettone in estate, nel senso che producendoli l'ho portato in Madagascar a Natale e non mi è piaciuto, dico la verità, il nostro panettone buonissimo, fatto con il burro e quindi con tutti i crismi del panettone, e quando siamo stati lì ci sono rimasto male, ecco, non era buono, magari questi signori colleghi hanno cambiato un po' la ricetta, l'hanno adeguato alle esigenze dell'estate, quindi resto. Ma in quale paese, è successo questo, Nazareno? In Madagascar, a Nosy Be, ero in vacanza a Natale. Ho capito. E me lo sono portato, ne ho portato un paio, pensavo di fare un figurone e invece è stato un insuccesso, ecco. Bene, sarà stato il viaggio, caro, ma prima o poi vedrai che anche in Madagascar sicuramente qualcuno produrrà il panettone. Ci sono già un paio di ristoratori italiani che hanno messo le radici là, hanno cominciato a produrre il gelato, chissà, forse produrranno anche il panettone. Ma grazie a Nazareno, ma ora vorrei leggere un paio di sms, diciamo uno molto curioso che approvo, il panettone d'estate va bene ma ci vuole anche l'estate, dice Claudio da Roma, e sono d'accordo con lui. Poi mi dicono appunto in Sicilia il panettone lo mangerei volentieri con granita alle mandorle, ma anche a Vittoria di Ragusa sta piovendo, quindi diciamo piove tutta Italia, ma questo non toglie che si possa mangiare il panettone d'estate, magari aspettiamo qualche giorno e lo potremo mai mangiare. Devo dire che ci sono anche molti sms che sono contrari perché dicono si rompa la tradizione. Ebbene, la tradizione è un'innovazione riuscita e in questo caso il panettone d'estate è una tradizione che è un'innovazione riuscita. Il giro del mondo di un panettone viaggia, il panettone viaggia, 800 24 00 24 349 238 6666. Torniamo appunto al panettone, torniamo anche perché il panettone diciamo d'estate ha un calendario stupendo di iniziative, già partito da Milano un paio di giorni fa con 25 pasticceri che hanno presentato il panettone d'estate, ma il 4 agosto ci sarà addirittura la serata del panettone a Salso Maggiore, vero Claudio Gatti? Sì, buongiorno Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono riuscito anche con il tuo aiuto di organizzare una bellissima festa, ho potuto invitare tutti i miei amici, non li chiamo colleghi ma li chiamo amici, che ritengo i miei maestri dell'interpretare il panettone sia in Italia che per tutto il resto del mondo, quindi hanno aderito con grande entusiasmo tutti, da Gino Fabbri a Renato Bosco, a Achille Zoi, il maestro ormai di tutti, in teoria, tutti noi. Senti Claudio, tu da anni produci panettone tutto l'anno, Hai trovato che diciamo c'è una richiesta del consumatore da parte del panettone e questa richiesta sta crescendo? Sì, sta crescendo in modo veramente, con delle cifre veramente importanti. Quindi io da 26-27 anni che produco da tutto l'anno, quindi per me è sempre stato, la mia focaccia l'ho sempre lanciata come un prodotto, un dolce da tutto l'anno. Negli anni mi sono cambiato tanti tipi, ho seguito un po' l'onda della birra, del tè verde, tutte queste cose qui per rinnovarmi, per fare prodotti nuovi che il mercato chiedeva. Ho sempre cercato di stare attento molto col mio prodotto, con l'alimentazione, quindi pochi zuccheri, pochi grassi, cercare di andare incontro anche alle esigenze del consumatore, perché d'estate magari si gradisce di più un panettone leggero così. Quindi io in realtà forse vendo tantissimo nelle mezze stagioni d'estate. Bene, rimani con noi, ora andiamo in pizzeria, sì, anche qui qualcuno barcollerà un po' sulla sedia, cioè cosa c'entra il panettone in pizzeria, non è che ci sarà una pizza al panettone, non è così, ma è, in realtà le pizzerie, come tutti sanno, lavorano il lievito madre, quindi sicuramente è molto vicino alla lavorazione del pasticcere, ma ultimamente sta veramente crescendo, diciamo, l'interesse e sta crescendo sicuramente l'abilità di molti pizzaioli di fare degli ottimi panettoni. Buongiorno a Renato Bosco Saporena. Buongiorno, Davide. Buongiorno a tutti. Renato, tu sei uno dei più famosi pizzaioli italiani. Ti volevo chiedere come mai, qual è stato questo passaggio appunto dalla pizza al panettone? Guarda Davide, devo ringraziare a questa opportunità che mi dai, perché il panettone è stata la chiave di svolta della pizzeria o della mia attività e della mia persona. Conoscendo un maestro come Rolando Morandin 20 anni fa, facendo un corso con lui, cercando di capire bene i lieviti, la tecnica e soprattutto la disciplina che in pasticceria c'è e che in pizzeria magari certe volte non viene così osservata, ha fatto fare un salto di qualità la mia attività, ma anche diciamo la mia persona. Io devo ringraziare proprio il panettone, lo sto riproponendo in forme diverse tutto l'anno, di conseguenza seguo un po' la stagionalità, in questo momento utilizzo degli agrumi, però diciamo così che il pizzaiolo in questo momento, che era diciamo così l'anello debole della ristorazione, si sta riscattando, c'è tanta voglia di crescere, c'è una grande opportunità di scambio con i maestri, già i 4 io sarò giù a Sesso Maggiore, mi fa veramente piacere essere assieme con dei maestri come Zoya e tutti quelli che sono là presenti, e non vedo l'ora di confrontarmi con loro. C'è grande entusiasmo e tanta voglia di crescere da parte della pizzeria. Bene, rimani con noi, sentiamo Dino dalla provincia di Milano. Buongiorno Dino. Buongiorno. Prego. Io ho ascoltato dall'inizio della trasmissione. Peccato, è caduta la linea, speriamo di recuperare Dino dalla provincia di Milano. Claudio Gatti, intanto ricordo 800 24 0024 per chi volesse telefonare, 349 238 6666, poi leggerò molti sms. Non so, abbiamo ripescato Dino? No, non abbiamo ripescato Dino. Allora Claudio, volevo chiederti questo. Io credo che il panettone d'estate, oltre a un incremento di giro d'affari, diciamo di crescita per molti pasticceri che d'estate, ovviamente chi lavora il cioccolato ed altro, sicuramente è meno attivo, però credo che abbia portato non solo questo, ma abbia scatenato la creatività dei pasticceri. È così? Sì, verissimo, verissimo. È diventato ormai il lancio dei panettoni che noi poi andremo a produrre a Natale. L'estate ci porta proprio a produrre dei panettoni nuovi, delle esperienze nuove da far assaggiare ai nostri clienti per l'estate, e poi a Natale abbiamo sicuramente un grosso lancio. Quindi serve anche il panettone d'estate per poter lanciare i nuovi prodotti. Infatti noi tutti, anche a Sesso Maggiore, molti portano dei nuovi prodotti da far degustare, per sentire commenti della gente che viene, quindi lo stiamo utilizzando anche molto come immagine per poi anche il Natale. Beh, senti, abbiamo ripescato Lino dalla provincia di Milano. Buongiorno Lino. Buongiorno a tutti. Prego. Sì. Ecco, io volevo, diciamo così, come avevo anticipato prima, provocatoriamente, lanciare l'idea dell'anguria a Natale. Sì. Bene. Ecco. Così, come antagonismo a quanto stiamo discutendo, perché vorrei evidenziare l'aspetto dell'appiattimento, diciamo così, delle tradizioni e del valore delle stesse. Sì, ma chi l'ha detto che è una tradizione? Come dice? Chi ha detto che è una tradizione? Beh, fino adesso lo è stato, se non sbaglio il panettone è andato come tradizione. Il panettone si è sempre anche mangiato durante tutto l'anno. E addirittura a Milano c'è una pasticceria, una vecchia pasticceria che non è più pasticceria, che ha un affresco sopra i panettoni e tanti signori e signorine vestite d'estate. Una pasticceria che risale al 1920. Quindi sicuramente è una tradizione, certo che è una tradizione, deve rimanere una tradizione, ma le tradizioni non sono ferme, dal punto di vista antropologico si muovono, crescono, e appunto c'è, lo ripeto, la tradizione è un'innovazione riuscita. Quindi giusto per festeggiare il panettone tradizionale, diciamo fatto con i canditi, quindi non fantasioso, però perché non permettere il panettone d'estate fatto con frutta, fatto con altre cose, chiamiamolo come volete, ma diamogli la forma del panettone. È evidente che la frutta non può essere cambiata, la frutta ha stagionalità, il panettone non ha stagionalità, quindi non so se Renato Bosco è d'accordo. Ma guarda, io mi trovo perfettamente d'accordo, anche perché per noi che tutti i giorni rinfreschiamo il nostro lievito madre, poter realizzare o poter replicare in tutto l'anno un prodotto che comunque modificato magari nella ricettazione con meno burro, meno tori d'uovo o quant'altro, anche meno zucchero, può avere la sua dignità anche in pieno agosto. Capisco anche, non dico la diffidenza o comunque l'approccio del radioascoltatore, bisogna provarlo, perché secondo il mio punto di vista se viene premiato anche con un buon gelato in pieno agosto in abbinamento a un lievitato di questo genere, sicuramente sarà vincente che i dessert. Quindi allora ripeto, chi volesse intervenire, accetto sicuramente chi la pensa in maniera contraria. Il telefono è libero, 800 24 00 24 349 238 6666. Potete chiamare, dissentire oppure, perché no, essere anche favorevoli. Claudio Gatti, parli di panettone alleggerito, quindi giustamente, appunto, per rispondere anche a questo radioascoltatore, diciamo che è leggermente diverso quello che si mangia d'estate rispetto a quello che si mangia a Natale. Certo, anche perché anche come noi, come tutti i gelatai che andiamo avanti a fare la frutta di stagione, in questo momento qua io ad esempio sto facendo candire le pesche, le albicocche, la papaya, quindi è un gusto estivo, un gusto che piace tantissimo. E poi, ma io ritengo che non è più un panetto, è un dolce tradizionale italiano che va mangiato tutto l'anno. Non vedo il perché, se il tiramisù lo mangiamo tutto l'anno, il panettone non si deve mangiare tutto l'anno. Beh, bisogna anche dire che ad esempio a Mantova, cioè Mantova e dintorni, c'è una tradizione al contrario, che in pieno agosto, il giorno di Ferragosto, c'è la tradizione di mangiare il cotechino, e quindi perché non si dovrebbe mangiare il cotechino in agosto, visto che c'è una tradizione in quella zona, in quel territorio. Vedo uno che dice: io voto contro il tutto, sempre ovunque, il mondo sta diventando tutto uguale. Benissimo, ma cosa c'entra col panettone? Non vedo proprio che ci sia qualche diciamo liaison col panettone. Destagionalizzazione, alienante, bene, prendiamo sicuramente, leggo tutto quello che è contrario, preferisco leggere quello che è contrario rispetto a quello che è favorevole. Renato Bosco, ma come vengono i clienti entrando in pizzeria e vedono il panettone? Qual è la reazione? Beh, logicamente la prima reazione è un po' di stupore, perché vedere un prodotto prettamente legato diciamo alla tradizione, come diceva il radioascoltatore, solo a dicembre, vederlo ad agosto rimane un po' sbalordito. Però poi quando capisce il perché si fanno questi prodotti e si vogliono promuovere, è il primo ad essere incuriosito, acquistarlo e poi diciamo così consumarlo. Se posso, mi permetterei, visto che ho anche una sala degustazione che propongo tutto l'anno, il panettone è, diciamo, come dessert che va ad abbinarsi, non so, in questo momento congelato, quant'altro. Se il cliente non ha la percezione di vedere la forma del panettone, però mangiare un lievitato, che è un lievitato di qualità, con certe caratteristiche, rimane stupito e anzi premia e comunica agli altri persone di poterlo assaggiare. Probabilmente è proprio una questione visiva e non di trasporto, ecco. Un'estate al mare, voglia di remare, fare bagno al largo per vedere. Eccoci al mare, 800 24 00 24, cade sempre la linea di un signore che so che è contrario, peccato. Con base panettone non potrebbero proporre direttamente delle torte gelato e quindi allungare la conservazione, ci scrive un nostro radioascoltatore. Bene, io dico cade a fagiolo. Buongiorno a Mattia Giardini. Buongiorno gelateria, gelateria Peppino. Senta, Mattia, ci dice il prodotto che ha sfornato quest'anno col panettone, di cosa si tratta? Sì, in realtà la nostra azienda da un po' di anni già fa il panettone ripieno di gelato, però da quest'anno possiamo dire di aver dato un impulso commerciale notevole a questo nuovo prodotto che ci permette anche di destagionalizzare un po' il gelato, e quindi abbiamo deciso di avvalerci di un artigiano che ci dà appunto la materia prima, che è il panettone. Noi lo svuotiamo, lo riempiamo del nostro gelato e lo proponiamo quindi ai clienti, e poi con il ripieno, diciamo, del panettone, diciamo il cuore quindi del panettone, non lo buttiamo via ma mettiamo nei mantecatori e creiamo quello che è il gusto che chiamiamo pan gelato. Quindi lo utilizziamo, diciamo, non buttiamo via niente del panettone e lo utilizziamo in tutto e per tutto. Bene, il panettone come il maiale, non si butta via niente. Sentiamo Antonio da Roma, radioascoltatore. Buongiorno Antonio. Buongiorno. Premesso che io sono ghiottissimo del panettone, quindi lo mangerei tutti i giorni dell'anno, però premesso questo, secondo me il fatto di mangiare il panettone fuori da un certo periodo, che poi è il periodo natalizio, ma il panettone come altri patti, certo. E io sono contrario, perché secondo me il mangiare ha anche una certa sacralità, una certa tradizione, sganciarlo da quello a cui è abbinato, perché se non ricordo male il panettone credo che sia nato proprio la vigilia di Natale per un errore, diciamo, del cuoco. Queste sono leggende. Sono leggende. Comunque, secondo me, noi per tradizione nostra italiana, altrimenti facciamo nascere, che non so, Gesù Bambino, facciamo nascere ad agosto. Cioè, secondo me, anche il mangiare ha un aggancio con le tradizioni popolari. Se scorporiamo questo discorso dalla tradizione popolare, perdiamo le nostre radici. Quindi, io sono profondamente contrario al discorso, non tanto, parlo in generale, ma in questo caso del panettone, di sganciare il mangiare dalla tradizione popolare. Bene. Perché fare questo significa perdere la nostra, diciamo, le nostre radici, per perdere la nostra storia. D'accordo, ognuno la può pensare come vuole. Non mi risulta che il panettone sia tradizionale in tutta Italia, all'improvviso lo è diventato, non credo che lo sia tradizionale in Sardegna come in altre aree, come in Calabria ad altro. È così in alcuni punti, è tradizionale ma non lo è in tutta Italia. Io credo che il panettone sia invece l'unico dessert italiano che potrebbe avere un grande sviluppo, e su questo ci hanno ben pensato i nostri confinanti pasticceri svizzeri, i quali in barba tutto l'anno producono panettone, se lo vendono agli stranieri che vogliono trovare un souvenir, quando in Italia non lo trovano perché, guarda caso, è legato alla tradizione. Benissimo, ma comunque, come dicevo, ognuno può pensarla come vuole. Abbiamo con noi, ora abbiamo parlato di mare, abbiamo parlato di panettone di mare, ho fatto sentire anche una, diciamo, una musica che ricordava il mare, ricordava gli ombrelloni. Abbiamo con noi Roberto Rinaldini, pasticceria Rinaldini di Rimini. Roberto, volevo chiederti questo, che d'estate hai sicuramente di fronte moltissimi turisti, soprattutto tedeschi, lo chiedono il panettone d'estate? Certo, ciao Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Guarda, io sono stato praticamente costretto a fare il panettone qualche anno fa dai clienti, perché appunto cercavano il famoso souvenir, e il souvenir deve essere un dolce che si può portare per 2 o 3 giorni di viaggio in tutto il mondo. Il panettone è perfetto per questo, avendo un locale a Firenze, sul Lago di Garda e anche a Milano in Rinascente. Il turista proprio cerca un prodotto da regalare, e la cultura italiana è nel panettone, il dolce simbolo della pasticceria italiana, e non capisco il motivo perché si debba fare solo a Natale o solo nel periodo di dicembre. È proprio tradizione e cultura, è il dolce che ci simboleggia in tutto il mondo, deve essere promosso da tutti tutto l'anno. Bene, rimani con noi e sentiamo cosa ne pensa un produttore di farine, attento come Piero Gabrielli, direttore marketing del Molino Quaglia. Buongiorno Gabrielli. Buongiorno Davide, buongiorno a tutti. Lei sicuramente ne penserà bene perché venderà più farina, immagino. Beh no, io ho ascoltato tantissime argomentazioni, tutte devo dire condivisibili, perché noi abbiamo nel Molino, oltre alla produzione, anche una scuola. E quindi accogliamo pasticceri, pizzaioli, panettieri che vengono a imparare l'uso del lievito madre, e un'applicazione principe del lievito madre è proprio il panettone. Del resto il panettone l'abbiamo sempre guardato come la versione dolce del pane della pizza, no? Per cui se eliminiamo questa remora mentale che il panettone esprime esclusivamente una tradizione, in realtà è un pan dolce che può associarsi con tantissimi ingredienti, quindi anche ingredienti stagionali. Peraltro, soprattutto nelle stagioni estive, quelle più calde, noi suggeriamo di utilizzare come farina, visto che è il nostro campo, un prodotto molto ricco di fibra, una farina che contiene tutto il chicco di grano, che questo rende il panettone più leggero, esalta il profumo del burro, limita il senso di unto e soprattutto è molto più digeribile per via delle fibre, per cui direi evviva il panettone tutto l'anno. Bene, ma anche il cappone. È tradizione fare il brodo per Natale, ma io lo mangio quando lo trovo, lo mangio molto volentieri, così pure i cappelletti. Io credo che un romagnolo che ha come tradizione sicuramente a Natale il piatto di cappelletti lo mangia tutto l'anno. Dicevo prima del cotechino con le lenticchie a Mantova il giorno di Ferragosto è una tradizione, quindi sicuramente, ma poi ognuno è libero di mangiarlo. Vedo che ci sono un sacco di radioascoltatori che stanno mandando SMS che dicono che gli è venuto voglia di panettone. Bene, signore, oggi avete la fortuna ora di trovarlo, non dappertutto, ma di trovarlo. Roberto da Milano, radioascoltatore, buongiorno Roberto. Buongiorno a lei, e infatti proprio a questo proposito volevo segnalare che in diverse pasticcerie a Milano si può fare colazione in alternativa alla brioche con una fetta di panettone. Io lo faccio comunemente per alternare brioche e tradizione anche. Lei lo inzuppa nel cappuccino, insomma? Ma più che nel cappuccino, nel caffè latte. Una colazione della tradizione, bene, che è sempre ottima e non disdegno mai, insomma. Bene, attento che poi magari in certi bar non propinino una cosa lì che è rimasta lì avanzata, vecchia, e quindi la tagliano. Comunque bisogna stare un po' attenti. San Biagio mangerò anche quella riproposta. Ecco, quello bisogna stare un po' attenti. San Biagio, le rimanenze sono un po' pericolose. Orietta da Livorno, una radioascoltatrice. Sì, buongiorno. Prego. Niente, volevo dire che io sono dell'opinione di rispettare le tradizioni, certo, ma anche per gli alimenti che compongono il panettone, che sono alimenti piuttosto pesanti anche, e è giusto che magari vengano mangiati nell'inverno. Se poi gli alimenti cambiano, viene più alleggerito, vengono messe della frutta o qualcosa, forse è meglio cambiargli il nome. Infatti, a quel punto diventa un altro dolce e si può chiamare in un altro modo e magari mangiarlo tutto l'anno. Lanciamo. Però il nome panettone forse è meglio lasciarlo d'inverno. Lanciamo un referendum per un nuovo nome. Roberto Rinaldini, volevo chiederti, è alleggerito la versione estiva del panettone? Guarda, io contro tendenza quest'anno non l'ho alleggerito, ho fatto la ricetta proprio di Natale perché, avendo tantissimi turisti stranieri, vogliono mangiare il tipico dolce del Natale italiano e non potendo venire durante il periodo di dicembre ho avuto questa richiesta qua. Io quest'anno ho fatto le stesse ricette del Natale proprio. Quindi sicuramente viene. E i riminesi lo accettano comunque? Sì, il riminese lo accetta, ma c'è da dire che il panettone è più buono caldo, col caldo mangiarlo, perché sviluppa più profumi, si dilatano più i pori. Perché avendo tanto grasso all'interno, se lo mangiamo col freddo tende a indurire il grasso. Sì. E dunque col caldo è addirittura meglio, perché tendono a metterlo sopra il camino o addirittura sopra la bocca del forno d'inverno prima di degustarlo, apposta per questo motivo. Beh sì, sicuramente d'inverno si mette sul termosifone, tutti lo mettono sul termosifone, tu hai perfettamente ragione, basta metterlo al sole. Ha degli aromi diversi, completamente diversi. Quindi, e poi obiettivamente non si può neanche mettere tanto meno zucchero, perché sennò il prodotto non si mantiene un mese. Certo. Essendo prodotti artigianali dove non ci sono monodigliceridi all'interno, dopo 20 giorni il panettone tende ad asciugarsi, se poi mettiamo anche meno zucchero è un prodotto che non può stare in vendita più di 15-18 giorni. Bene, bene, grazie Roberto. Sentiamo Maria Rosa da Milano. Buongiorno Maria Rosa. Buongiorno. Io sentivo persone che dicono che c'è la tradizione del panettone a Natale, ma oramai negli ultimi anni il panettone si trova già a settembre sulle bancarelle, perciò non è più solo a Natale, e poi lo si trova fino attaccato alla colomba, perciò si è già allargato e allungato il tempo in cui si mangia il panettone. Quando in un periodo dove nella tradizione a dicembre bisognerebbe mangiare verdure invernali, invece si trovano pesche e ciliegie a dicembre, perciò la stagionalità, diciamo che è diventata una questione remota. Bene. Non è più attuale. Grazie, grazie, grazie a Maria Rosa da Milano. Bene, io direi, sentiamo Marco da Milano, un altro radioascoltatore. Buongiorno Marco. Buongiorno. Volevo dare un piccolo suggerimento, perché panettone. Sì, prego. Giustamente lei ha detto, attenti che non sia un avanzo. Ma allora, a me sembra un'ottima idea quella di farlo trovare sugli scaffali tutto l'anno. Forse bisogna, anziché cambiargli il nome, scrivere panettone estate, panettone primavera, panettone autunno, così ce lo compriamo sicuri che non è un fondo di magazzino. Sì, infatti non so se anche l'ha fatto anche col panettone, ma Roberto Rinaldini fa proprio le versioni della sua pasticceria, quindi no, sì. hai fatto anche le versioni, diciamo, stagionali? Le versioni estive con le albicocche, con lo zenzero, con la pesca, la ciliegia, le amarene. Queste sono proprio collezioni dedicate all'estate, oltre a quella che quest'anno abbiamo presentato, il dolce tipico proprio di Natale con canditi e uvetta. Mattia Giardini, volevo chiederti questo, lei non fa una versione invernale del panettone, visto che lo serve col gelato? No, in realtà per noi il panettone è tutto l'anno col gelato, è chiaro, è un dolce prettamente natalizio, e quindi a Natale abbiamo dei forti momenti di vendita. Però mi volevo collegare a quello che diceva prima Rinaldini, è esattamente come il gelato, uno pensa che sia meglio mangiarlo d'estate, sì, per carità, si mangia d'estate, ma è buono mangiarlo anche d'inverno, semplicemente perché uno pensa d'estate di mangiare qualcosa di fresco, è vero, ma è d'inverno che lo si può gustare comunque al meglio, secondo me. Io quello che suggerisco è la destagionalizzazione, permette di avere qualcosa di buono tutto l'anno, bisogna farlo con oculatezza senza esagerare, chiaramente. Beh, devo dire che comunque in fatto di gelateria ormai in ogni angolo di strada c'è una gelateria, quindi credo che rimangano aperte tutto l'anno, perché altrimenti non so come farebbero far tornare i conti. Vedo che molti mi chiedono anche di panettone salato, allora ricordo che il 3 agosto per il brunch alla Dopolavoro Bicocca a Milano ci sarà un brunch tutto basato sul panettone, dolce e salato, davvero molto interessante. Vi dico solamente un piatto: panettone tostato, mortadella con pistacchio. Ecco, poi vi lascio il resto, lo lascio perché non voglio andare oltre. Ma abbiamo con noi una bravissima pasticceria del sud, che appunto ha fatto del panettone uno dei suoi cavalli di battaglia, come dicevo prima, che il panettone, diciamo, si sta estendendo veramente regionalmente un po' ovunque. Carmen Vecchioni, buongiorno, della Dolce Arte di Avellino. Ciao Davide, salve a tutti. Tu hai fatto delle versioni estive molto fruttate quest'anno, ce ne vuoi raccontare un paio? Sì, noi con l'estate ci muoviamo sempre con la frutta di stagione, quindi dalle fragole passiamo ai frutti di bosco, al limone, ai gelsi, quindi sono frutti tipicamente estivi, ci muoviamo con sapori freschi, ecco, con frutta fresca. Quindi tu fai una versione invernale, diciamo che quella tradizionale, fai una versione estiva che è questa con la frutta? Noi l'abbiamo sempre fatto, effettivamente, da quando abbiamo aperto. Inizialmente l'abbiamo proposto sotto forme diverse, poi dato che sono affezionatissima al panettone ho deciso proprio di cominciare questa battaglia e di metterlo nella sua forma anche d'estate, quindi chiamandolo panettone d'estate. E fortunatamente a noi anche quest'anno, penso che quest'anno abbiamo avuto il 100% in più della produzione dell'anno scorso d'estate, quindi il prodotto va, anche perché noi lo abbiniamo con delle salse, con la panna servita al banco, ecco, fette, con il succo di fragola, quindi cerchiamo di trovare delle varianti, anche perché è una brioche, ecco, è un pane arricchito, considerando che il lievito io ce l'ho nel cuore, perché non farlo esprimere nel miglior modo possibile, che è il panettone, ecco. Bene, ricordo 800 24 00 24, 349 238 6666. Abbiamo con noi anche del mondo della produzione. Prima abbiamo chiesto produttore di farina, ora chiediamo a un'azienda produttrice di canditi, l'azienda Giuso, a Silvia Garbarino. Buongiorno Garbarino. Buongiorno a tutti. Volevo chiederle, ecco, d'estate, cioè la richiesta per il panettone, chiamiamolo così ormai, panettone d'estate, varia sulla richiesta dei canditi da parte delle aziende? Ma sicuramente anche in azienda registriamo quello che abbiamo sentito dire da tanti clienti pasticceri, e cioè la diversificazione della tipologia di frutta. Quindi frutta sicuramente di stagione, l'albicocca, l'ananas, la pesca, la ciliegia, che noi comperiamo nel momento in cui è nella massima espressione maturità, la surgeliamo e poi la produciamo e la rendiamo disponibile nel momento di alta stagionalità, e quindi la possibilità di trasformarla con ricette sempre più creative ed originali come quelle che abbiamo sentito oggi dai nostri pasticceri amici. Sentiamo Roberto dalla provincia Monza Brianza, un radioascoltatore. Buongiorno Roberto. Buongiorno Davide. Prego. Buongiorno. Era molto curiosa la trasmissione, e siccome vengo fuori adesso da un panificio panetteria che sta a Carate, che si è proprio specializzato nei panettoni, e devo dire che d'estate è una cosa che molti reputano anomala, invece è veramente una scoperta, almeno per me lo è stata, soprattutto magari abbinato a formaggi piuttosto cremosi, per cui che possono reggere magari anche vini dolci che si abbinano sia l'una cosa che l'altra. È la qualità degli ingredienti che secondo me fa la differenza, come sempre, e il fatto, certo, di non conservarlo a lungo. Per cui insomma volevo semplicemente segnalare questo, nel senso che il posto è anche abbastanza noto, anche se è un bugigatto abbastanza sperso in Caratese. Sì, ma ho capito, a Carate c'è un panificio veramente importante e bravissimo, il panificio Longoni se non erro, quindi sicuramente la qualità delle materie prime è eccellente. Grazie Roberto, e io voglio andare ora a Roma, diciamo nel panificio pizzeria di Gabriele Bonci, dalla panificatrice che è Roberta Pezzella. Buongiorno Roberta. Buongiorno a tutti. Senta Roberta, volevo chiederle questo, lei che è una nota panificatrice molto brava, cioè fare il panettone d'estate e farlo invece d'inverno cambia nella manualità, nel processo di produzione? Bah, cambia sicuramente che la temperatura del laboratorio cambia, quindi si possono affrontare delle difficoltà, però noi cerchiamo insomma al meglio di fare la produzione insomma bene. Con questo abbiamo chiuso, ma voglio chiuderlo con una canzone, con Un'estate al mare, perché credo che sia la più divertente a questo punto. Auguro che l'estate arrivi veramente per poter mangiare il panettone sotto l'ombrellone, sennò con questo freddo probabilmente bisogna usare veramente la versione invernale. Bene, ringrazio in redazione Anita Panizza, Lorenzo Nespoli e in regia Pietro Lacorte. Buon weekend a tutti con un bellissimo panettone sotto l'ombrellone, perché domani dovrebbe arrivare bel tempo. Quindi un caro saluto da Davide Paolini.